cosa fai? Come mai su questo treno? Dove vai? Con chi sei? Vedi ancora quello che non ride mai? Stai bene insieme a lui? Dormi qua, se ti va, io mi fermo su a Milano. Vuoi un caffè? Beh, che c'è? Nel vagone letto non c'è un'anima. Puoi star tranquilla, ma dai. Storie ne ho quando capita, niente di serio però. Chiudi le tende sul sole che scende tra noi e tu, sul treno che va lassù. Adesso sei qui e non so se è un caso. Imbarazzante, zitto io, zitta tu, fisso le mie scarpe, ma ti bacerei. Tu ti avvicini e lo fai.